Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Levin era sposato da 3 mesi. Era felice, ma non della felicità che si aspettava. A ogni passo trovava una smentita ai suoi sogni di prima, oppure un nuovo incanto inaspettato. Levin era felice, ma entrato nella vita familiare, vedeva a ogni passo che essa non era affatto come se l'era immaginata. A ogni passo provava quel che deve provare un uomo che, dopo aver ammirato il dolce filare d'una barchetta sul lago, ci si siede sopra. Così si accorge che non basta star seduti quieti, senza buttarsi di qua o di là, ma occorre aver sempre presente che sotto la barca c'è l'acqua e non dimenticare mai dove si vuole andare. E bisogna remare, e le braccia non abituate si indolenziscono, e insomma, a guardare la cosa da lontano, tutto sembra facile, ma se uno si mette a farla, appare molto difficile, anche se gradevolissima. Gli accadeva da scapolo che, guardando l'altrui vita coniugale, le preoccupazioni meschine, i litigi, la gelosia, egli sorridesse in cuor suo di disprezzo. Nella sua futura vita coniugale, secondo la sua convinzione, non solo non avrebbe potuto esserci nulla di simile, ma anche le forme esteriori, gli sembrava, avrebbero dovuto essere in tutto dissimili dalla vita degli altri. E improvvisamente, in luogo di ciò, la sua vita con la moglie non solo non si svolgeva in modo particolare, ma al contrario si andava tutta formando di quelle piccolezze più insignificanti che lui prima aveva tanto disprezzato, ma che adesso acquistavano contro la sua volontà un'importanza insolita e incontestabile. E Levin vedeva che l'organizzazione di tutte queste piccolezze non era affatto così facile come gli sembrava prima. Benché supponesse di avere idee molto precise sulla vita familiare, come tutti gli uomini, senza volerlo, si era rappresentato la vita familiare solamente come il godimento dell'amore, che nulla doveva ostacolare e da cui non dovevano distrarre le preoccupazioni meschine. Secondo la sua idea, lui doveva fare il proprio lavoro e riposare da esso nella felicità dell'amore. Lei doveva essere amata e basta. Ma come del resto tutti gli uomini. Egli dimenticava che anche lei aveva dei compiti da svolgere e si stupiva che lei, quella poetica, incantevole Kitty, potesse non solo nelle prime settimane, ma già nei primi giorni della vita familiare, pensare, ricordare e darsi da fare per le tovaglie, i mobili, i materassi per chi arrivava, per un vassoio, un cuoco, il pranzo e così via. Già da fidanzato era stato colpito dalla fermezza con cui lei aveva rifiutato di fare il viaggio all'estero e aveva deciso di andare in campagna, come se sapesse che era necessario far qualcosa e, oltre che al suo amore, pensasse anche ad altre cose. Questo allora lo aveva offeso e anche adesso, varie volte, lo offesero le meschine cure e preoccupazioni di lei. E amandola, benché non ne capisse il perché, benché ridesse di quelle preoccupazioni, non poteva non ammirarle. Rideva di come lei disponeva i mobili portati da Mosca, di come aveva arredato in modo nuovo la propria e la sua stanza, di come appendeva le tende, di come disponeva il futuro locale per gli ospiti, per Dolly, di come aveva messo a posto la stanza per la sua nuova ragazza, di come entrava in discussione con Agafia Mikhailovna allontanandola dalla dispensa. Vedeva che il vecchio cuoco sorrideva, compiacendosi d'ascoltare i suoi ordini inesperti e impossibili. Vedeva che Agafia Mikhailovna scuoteva in modo pensieroso e affettuoso la testa di fronte alle nuove disposizioni della giovane signora a proposito della dispensa. Vedeva che Kitty era straordinariamente carina quando, ridendo e piangendo, veniva da lui ad annunciargli che Masha, la ragazza, era troppo abituata a considerarla una signorina e perciò nessuno le obbediva. Questo gli sembrava carino, ma strano, e pensava che ne avrebbe fatto volentieri a meno. Thank you. Quando Levin salì di sopra, sua moglie era seduta vicino al nuovo samovar d'argento e al nuovo servizio da tè, e fatta sedere a un tavolino la vecchia Agafia Mikhailovna davanti alla tazza di tè che lei aveva versato, leggeva una lettera di Dolly con la quale era in continua e fitta corrispondenza. «Ecco, la vostra signora mi ha fatto sedere, mi ha messo a sedere con lei», disse Agafia Mikhailovna sorridendo benevolmente verso Kitty. In queste parole Levin lesse lo scioglimento del dramma che negli ultimi tempi si era svolto fra Agafia Mikhailovna e Kitty. Vide che, nonostante tutto il dolore arrecato ad Agafia Mikhailovna dalla nuova padrona che le aveva tolto le redini del governo, Kitty non di meno l'aveva vinta e costretta a volerle bene. «Ecco che ho letto anche una lettera tua», disse Kitty porgendogli una lettera sgrammaticata. «È di quella donna, mi pare, di tuo fratello. Non l'ho letta tutta. E questa è dei miei e di Dolly. Immaginati, Dolly ha portato Grisha e Tania a un ballo di bambini dai Sarmaschi. Tania era vestita da marchesa». Ma Levin non l'ascoltava. Arrossendo aveva preso la lettera di Maria Nikolaevna, l'antica amante del fratello Nikolai, e si era messo a leggerla. Era già la seconda lettera di Maria Nikolaevna. Nella prima lei aveva scritto che il fratello l'aveva cacciata senza sua colpa e con commovente ingenuità aggiungeva che, sebbene fosse di nuovo in miseria, non chiedeva, non desiderava nulla, ma la uccideva soltanto il pensiero che Nikolai Dmitrievich senza di lei sarebbe perito a causa della debolezza della sua salute, sicché pregava il fratello di sorvegliarlo. Adesso scriveva altro. Aveva trovato Nikolai Dmitrievich, si era messa di nuovo con lui a Mosca ed era andata con lui in una città capoluogo di governatorato dove lui aveva avuto un posto in servizio statale, che però laggiù lui aveva litigato con il capo ed era ripartito per Mosca, ma durante il viaggio s'era tanto ammalato che difficilmente si sarebbe ormai alzato dal letto, scriveva. «Ha sempre ricordato voi e anche soldi non ce ne sono più». «Leggi, Dolly scrive di te», fece per cominciare Kitty sorridendo, ma si fermò a un tratto avendo notato l'espressione mutata della faccia del marito. «Che hai? Che cosa c'è?» «Lei mi scrive che Nikolai, mio fratello, è in punto di morte. Io parto». Il viso di Kitty a un tratto cambiò. I pensieri su Tania, vestita da marchesa, su Dolly, tutto questo scomparve. «Quando partirai?» «Domani». «E io vengo con te, si può?» disse lei. «Kitty, via, che cos'è questo?» disse lui con rimprovero. «Come che cos'è?» domandò Kitty, offesa perché lui accoglieva la sua proposta come di malavoglia e con dispetto. «Perché non dovrei partire? Non ti darò fastidio, io...» «Io parto, perché mio fratello muore», disse Levin. «Perché tu?» «Perché?» «Per lo stesso motivo per cui parti tu. Persino in un momento per me così importante, lei pensa soltanto che da sola si annoierà», pensò Levin. E questo motivo, in una faccenda così importante, lo fece arrabbiare. «È impossibile», disse severamente. Impossibile. Perché dici che è impossibile? Perché bisogna andare Dio sa dove, per quali strade, alberghi, mi sarai d'impiccio, disse Levin cercando di mantenere il sangue freddo. Ho niente affatto, io non ho bisogno di nulla. Dove puoi tu, anch'io? Via, già soltanto per il fatto che là c'è quella donna con cui tu non puoi far conoscenza. Io non so nulla e non voglio sapere chi c'è là e che cosa. Io so che il fratello di mio marito sta morendo, e mio marito va da lui, e io vado con mio marito per... Kitty, non arrabbiarti, ma rifletti. Questa cosa è così importante che mi fa male pensare che tu vi mescoli un sentimento di debolezza, il desiderio di non restare sola. Bene, se ti annoia star sola, vai a Mosca allora. Ecco, tu mi attribuisci sempre dei pensieri cattivi e volgari, cominciò a dir lei con lacrime d'offesa e d'ira. Io non c'è nessuna debolezza. Io sento che il mio dovere è di essere con mio marito quando ha un dolore. Ma tu vuoi farmi male apposta. Apposta non vuoi capire. No, questo è orribile. Essere una specie di schiavo, gridò Levin alzandosi e non avendo più la forza di trattenere la propria irritazione. Ma in quello stesso attimo sentì che colpiva se stesso. Allora perché ti sei sposato? Saresti libero. «Perché se te ne penti?» cominciò a dir lei. Balzò su e corse in salotto. Quando egli andò a cercarla, Kitty singhiozzava in lacrime. Cominciò a parlare, desiderando trovare le parole che potessero non dissuaderla, ma anche soltanto calmarla. Ma lei non lo ascoltava e non consentiva in nulla. Egli si chinò su di lei e le prese la mano che faceva resistenza. Baciò la mano, baciò i capelli di lei, baciò di nuovo la mano. Lei continuava a tacere, ma quando le prese la faccia con tutte e due le mani e disse «Kitty», a un tratto lei tornò in sé, pianse per un po' e fece la pace. Decisero di partire l'indomani insieme. Levin disse alla moglie di credere che lei desiderava partire solamente per essere utile. Fu d'accordo che la presenza di Maria Nikolaevna presso il fratello non presentava nulla di sconveniente, ma nel fondo dell'anima partiva scontento di sé e di lei. Era scontento di lei perché non aveva saputo indursi a lasciarlo andare almeno in questa occasione. E come era strano per lui pensare che, mentre fino a poco prima non osava credere alla felicità che lei potesse amarlo, adesso si sentiva infelice perché lei lo amava troppo. E scontento di sé perché non aveva dato prova di forza di carattere. Nel profondo dell'anima era ancor meno d'accordo con il fatto che a lei non dovesse importare della donna che era con il fratello e pensava con orrore a tutti gli urti che potevano accadere. Già il solo fatto che sua moglie, la sua Kitty, si trovasse nella medesima stanza con una ragazza di strada lo faceva rabbrividire di ribrezzo e di orrore. L'albergo del capoluogo di provincia in cui giaceva a letto Nikolai Levin era uno di quegli alberghi provinciali che vengono messi su secondo i nuovi criteri perfezionati, con le migliori intenzioni di pulizia, di comodità e persino d'eleganza, ma che per via del pubblico che li frequenta si trasformano con straordinaria rapidità in sudice bettole con una pretesa di comfort moderno. E per questa stessa pretesa diventano ancor peggiori dei vecchi alberghi, semplicemente sporchi. Quest'albergo era già in questo stato, e il soldato con la divisa sporca che faceva le veci del portiere fumando una sigaretta all'ingresso, e la scala di ghisa aperta, tetra e sgradevole, e il cameriere disinvolto con il frac sporco, e la sala comune con un mazzo impolverato di fiori di cera che adornava la tavola, e la sporcizia, la polvere e il disordine dappertutto, e insieme un certo nuovo affaccendarsi da stazione ferroviaria dell'albergo, produssero sui Levin, dopo la loro vita di giovani sposi, la sensazione più penosa. tanto più che quell'ambiente stonava singolarmente col dolore cui andavano incontro. Nella piccola camera sudicia, coperta di sputi sui riquadri dipinti dei muri, dietro un sottile tramezzo oltre il quale si sentiva parlottare in un'aria satura d'un soffocante odore di impurità, su un letto discosto dalla parete, giaceva un corpo sotto una coperta. Un braccio di quel corpo era sopra la coperta e la mano, enorme come un rastrello, era incomprensibilmente attaccata a un lungo fuso, sottile e uniforme dal principio al centro. La testa era adagiata di fianco sul cuscino. Levin poteva vedere i radi capelli sudati sulle tempie e la fronte tesa, quasi trasparente. «Non può essere che questo corpo orribile sia mio fratello Nikolai», pensò Levin. Ma si avvicinò di più, vide il viso, e il dubbio non fu ormai più possibile. Nonostante il terribile cambiamento del viso, a Levin bastò guardare quegli occhi vivi che si erano levati su chi era entrato, notare il lieve movimento della bocca sotto i baffi appiccicati, per capire la terribile verità, che quel morto corpo era suo fratello vivo. Gli occhi luccicanti guardarono in modo severo e pieno di rimprovero il fratello che entrava. E subito, attraverso quello sguardo, si stabilì un rapporto vivo fra vivi. Levin avvertì un rimprovero nello sguardo fisso su di lui e il rimorso per la propria felicità. Quando Konstantin lo prese per una mano, Nikolai sorrise. Il sorriso era debole, appena percettibile, e nonostante il sorriso, l'espressione severa degli occhi non mutò. «Non ti aspettavi di trovarmi così?» proferì egli con fatica. «Sì, no!» disse Levin imbrogliandosi nelle parole. «Come mai non me l'hai fatto sapere prima, cioè già durante il periodo del mio matrimonio? Ho chiesto informazioni dappertutto. Bisognava parlare per non tacere. E lui non sapeva che cosa dire. Tanto più che il fratello non rispondeva nulla. Si limitava a guardarlo senza distogliere gli occhi ed evidentemente penetrava il significato d'ogni parola. Levin comunicò al fratello che sua moglie era venuta con lui. Nikolai manifestò soddisfazione, ma disse che temeva di spaventarla con il suo stato. Subentrò un silenzio. A un tratto Nikolai cominciò a muoversi e a dire qualcosa. Dall'espressione del suo viso, Levin si aspettava qualcosa di particolarmente significativo e importante, ma Nikolai si mise a parlare della sua salute. Accusava il dottore, si rammaricava che non ci fosse un famoso dottore di Mosca e Levin capì che lui sperava ancora. Scelto il primo momento di silenzio, Levin si alzò, desiderando liberarsi anche solo per un momento da quella sensazione tormentosa, e disse che usciva per chiamare la moglie. «Sì, va bene. Io intanto ordinerò di pulire un poco qui. Qui è sporco e puzza, penso. Masha, metti in ordine qui», disse con fatica il malato. «E quando avrai messo in ordine, vai via», aggiunse guardando interrogativamente il fratello. Levin non rispose nulla. Uscendo in corridoio si fermò. Aveva detto che avrebbe portato lì la moglie, ma ora, rendendosi conto della sensazione che aveva provato, decise che al contrario si sarebbe sforzato di dissuaderla dal recarsi dall'ammalato. «Perché dovrebbe tormentarsi come me?» pensò. «E allora, come sta?» domandò Kitty con la faccia spaventata. «Oh, è spaventoso, spaventoso. Perché sei venuta con me?» disse lui. Kitty tacque per alcuni secondi guardando il marito timidamente e con compassione. Poi si avvicinò e si afferrò con entrambe le mani al suo gomito. «Kostya, portami da lui. Sarà meno penoso in due. Basta che tu mi porti là. Portami, per favore, e tu vai via. Capisci che vedere te e non vedere lui per me è molto più penoso. Forse là potrò essere utile a te e a lui. Per favore, permettilo». E supplicò il marito come se la felicità della sua vita dipendesse da questo. Levin dovette acconsentire e, ripresosi e avendo ormai completamente dimenticata Maria Nikolaevna, andò di nuovo dal fratello insieme a Kitty. Con passo leggero, sogguardando di continuo il marito e mostrandogli un viso coraggioso e compassionevole, lei entrò nella camera del malato e, voltandosi senza fretta, chiuse la porta senza rumore. A passi silenziosi si avvicinò rapidamente al malato e, accostandosi in modo che egli non avesse bisogno di voltar la testa, prese subito nella propria giovane fresca mano lo scheletro della mano enorme di lui. La strinse e cominciò a parlare con lui con quella quieta animazione compassionevole ma non offensiva propria soltanto alle donne. «Ci siamo incontrati, ma non ci conoscevamo, a Soden», disse. «Voi non pensavate che sarei diventata vostra sorella?» «Non mi avreste riconosciuto, non è vero?» disse lui con un sorriso che si era illuminato all'entrare di Kitty. «No, vi avrei riconosciuto. Ah, come avete fatto bene a farcelo sapere. Non c'era giorno che Kostya non vi ricordasse e non si preoccupasse». Ma l'animazione del malato non durò a lungo. Kitty non aveva ancora finito di parlare che sul viso di lui si stabilì di nuovo la severa espressione di rimprovero e di invidia del morente per il vivo.